Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Capitolo 9. Scoperta e inseguimento. La cena era servita. Le sedie disposte intorno alla tavola, bottiglie, caraffe e bicchieri allineati sulla mensola, e ogni cosa suggeriva l'approssimarsi del momento più cordiale della giornata. «Dov'è Rachel?» disse Mr. Wardle. «Già, e Jingle?» aggiunse Mr. Pickwick. «Che strano!» disse il padrone di casa. «Strano che non mi sia accorto della sua mancanza. Pensate, credo di non aver sentito la sua voce per almeno 2 ore. Emily, cara, suona il campanello!» Il campanello fu suonato e comparve il ragazzo grasso. «Dov'è Miss Rachel?» Ah, lui non sapeva proprio. «Dov'è Mr. Jingle?» Ah, lui non ne aveva idea. Tutti apparivano sorpresi. Era tardi, 11 passate. Mr. Tupman rideva sotto i baffi. Certo, si indugiavano da qualche parte a parlare di lui. «Ah, che scherzo! Che ridere!» «Non vi preoccupate!» disse Wardle dopo una breve pausa. «Li vedremo comparire da un momento all'altro, vedrete. Io non ritardo la cena per nessuno.» «Ottima regola», disse Mr. Pickwick. «Esemplare.» «Sedete, prego», disse il padrone di casa. «Senz'altro», disse Mr. Pickwick, e tutti sedettero. C'era un enorme pezzo di coscia fredda sulla tavola e Mr. Pickwick ne ebbe un'abbondante porzione. Aveva già portato la forchetta alle labbra ed era proprio sul punto di aprire la bocca per infilarci il primo pezzetto di carne, quando giunse improvvisamente dalla cucina il brusio di molte voci. Si fermò e posò la forchetta. Anche Mr. Wardle si fermò e piano piano allentò la presa sul coltello da scalco che rimase infilato nella carne. Guardò Mr. Pickwick e Mr. Pickwick lo guardò. Un rumore di passi pesanti si udì nel corridoio. La porta della sala si spalancò di colpo ed entrò a precipizio l'uomo che aveva pulito gli stivali a Mr. Pickwick al suo arrivo, seguito dal ragazzo grasso e da tutta la servitù. «Che storia è questa?» esclamò il padrone di casa. «Non avrà mica preso fuoco il camino di cucina, vero, Emma?» chiese la vecchia signora. «Nonna cara, no!» gridarono insieme le signorine. «Che cosa è successo?» ruggì il padrone di casa. L'uomo prese fiato, poi sbottò. «Se ne sono andati, padrone, scappati, senza voltarsi indietro, signore!» A questo punto fu visto Mr. Tupman posare coltello e forchetta e impallidire orribilmente. «Chi se n'è andato?» disse Mr. Waldor ferocemente. «Mr. Jingle e Miss Rachel, in una vettura da viaggio al leone azzurro di Muggleton. Ero là, ma non ho potuto fermarli. Allora sono corso a dirvelo.» «Gli ho prestato 10 sterline, disse Mr. Tupman saltando su come un matto. «Fermatelo! Mi ha truffato! Non la passerà liscia! Voglio avere giustizia, Pickwick! Non subirò una cosa simile!» E con una serqua di esclamazioni incoerenti di questo tipo, l'infelice signore girava come una trottola intorno alla stanza in un delirio di rabbia. Che voglio patrova, tutte le cide, tutte le pittine, voglio passare. Il Signore ci conservi, proruppe Mr. Pickwick, guardando con terrore e meraviglia lo straordinario atteggiamento dell'amico. È impazzito. Che cosa dobbiamo fare? Fare? Disse il vecchio padrone di casa, che aveva sentito solo l'ultima frase. Attaccate il cavallo al calesse. Prenderò una carrozza al leone e li seguirò immediatamente. Dov'è? Esclamò mentre l'uomo correva fuori a eseguire l'ordine. Dov'è quella canaglia di Joe? Eccomi qui. Ma non sono una canaglia, rispose una voce. Era quella del ragazzo grasso. Non cercate di fermarmi, Pickwick, esclamò Wardle gettandosi contro lo sfortunato giovane. Si è fatto pagare da quel mascalzone di Jingle per mettermi su una falsa strada, raccontandomi una storia inverosimile di mia sorella e del vostro amico Tupman. Qui Mr. Tupman cadde riverso su una sedia. Solo che riesca a mettergli le mani addosso. Tenetelo! Strillarono tutte le donne mentre i lamenti del ragazzo grasso si alzavano al di sopra delle loro voci. Lasciatemi! Esclamava il vecchio. Mr. Winkle, giù le mani! Mr. Pickwick, lasciatemi andare, signore! Era un bello spettacolo. In quel momento di agitazione e di scompiglio, vedere la faccia di Mr. Pickwick tranquilla e filosofica, benché un poco arrossata per lo sforzo, mentre le sue braccia si abbrancavano saldamente al grosso giro di vita del suo ospite corpacciuto, raffrenando così l'impeto della sua collera. E nel contempo il ragazzo grasso veniva estromesso dalla stanza a graffi, strattoni e spintoni da tutte le femmine riunite là. Aveva appena abbandonato la presa quando entrò l'uomo ad avvertire che il calesse era pronto. «Non lasciatelo partire solo!» strillarono le donne. «Ucciderà qualcuno!» «Vado io con lui!» disse Mr. Pickwick. «Ah, siete un buon amico, Pickwick!» disse l'ospite stringendogli la mano. «Emma, da Mr. Pickwick una sciarpa da mettere intorno al collo, fa presto! Occupatevi della nonna, ragazze! È svenuta! Allora, siete pronto?» Un largo scialle era stato avvolto frettolosamente intorno al collo e sulla bocca di Mr. Pickwick. Gli avevano messo il cappello in testa e gettato sul braccio il cappotto, per cui rispose di sì. Saltarono sul calesse. «Lascia andare il cavallo, Tom!» gridò il padrone. E si lanciarono giù per la stradicciola di campagna, entrando e uscendo dalle carreggiate con grandi scossoni e strisciando da tutte e due le parti contro le siepi, come se dovessero andare in pezzi ogni momento. «Di quanto ci precedono!» gridò Wardle quando fermarono il calesse davanti alla porta del leone azzurro, intorno alla quale si era radunata una piccola folla, tardi com'era. «Non più di tre quarti d'ora!» tutti dissero. «Un tiro a quattro, subito, qui, fuori, e poi mettete dentro il calesse!» «Avanti, ragazzi!» esclamò il locandiere. «Tirate fuori la carrozza e i cavalli, fate presto! Svegliatevi laggiù!» Stallieri e garzoni corsero via. Brillò la luce delle lanterne e gli uomini corsero avanti e indietro. Sul grezzo selciato del cortile scalpitarono gli zoccoli dei cavalli, uscì scrosciando la carrozza dalla rimessa e tutto fu rumore e trambusto. «E allora? Ci vuole tutta la notte per far uscire una carrozza?» gridò Mr. Wardle. «Eccola che arriva nel cortile!» rispose lo stalliere. La carrozza venne fuori, i cavalli furono attaccati, i postiglioni saltarono sopra, i viaggiatori entrarono dentro. «Ricordatevi, le 7 miglia fino alla prima posta in meno di mezz'ora!» urlò Mr. Wardle. «Avanti, oh!» I postiglioni usarono frusta e sprone, i camerieri urlarono, gli stallieri applaudirono e l'equipaggio partì con furiosa andatura. «Bella situazione», pensò Mr. Pickwick quando ebbe finalmente un attimo di tempo per riflettere. «Bella situazione per il presidente generale del circolo Pickwick. Carrozza umida, cavalli matti, 15 miglia all'ora e a mezzanotte. Per giunta.» Thank you. Per le prime 3 o 4 miglia non una parola fu scambiata fra i due signori, troppo profondamente immersi nelle proprie riflessioni per rivolgersi l'uno all'altro. Ma quando ebbero fatto tutta quella strada e i cavalli ormai perfettamente scaldati incominciarono ad assumere un ritmo più sciolto, la velocità della corsa rese Mr. Pickwick troppo euforico per mantenere un rigoroso silenzio. «Secondo me li raggiungiamo di sicuro», disse. «Lo spero», rispose il suo compagno. «Bella notte», disse Mr. Pickwick alzando gli occhi alla luna che splendeva luminosa. «Tanto peggio per noi», ribatté Wardle, «perché loro avranno avuto tutto il vantaggio della luna per distaccarci e noi lo perderemo. Fra un'ora sarà tramontata». «Non sarà molto comodo viaggiare al buio a questa velocità, non è vero?» chiese Mr. Pickwick. «Credo proprio di no», rispose seccamente il suo amico. La momentanea eccitazione di Mr. Pickwick incominciò a diminuire un pochino al pensiero degli inconvenienti e dei pericoli di quella spedizione in cui si era imbarcato con tanta spensieratezza. Fu riscosso da un alto grido del postiglione di testa. «Yo, yo, yo!» gridava questi. «Yo, yo, yo!» seguì l'altro postiglione. «Yo, yo, yo!» ripeté ancora il vecchio Wardle molto vigorosamente, con la testa e mezzo il corpo fuori dal finestrino della carrozza. «Yo, yo, yo!» urlò Mr. Pickwick con altissimo senso del dovere, benché non avesse la minima idea del senso e dello scopo di quel grido. E fra tutti gli yo, yo dei quattro, la carrozza si fermò. «Che succede?» chiese Mr. Pickwick. «C'è una barriera della dogana», rispose il vecchio Wardle. «Sentiremo cosa dicono dai fuggitivi». Dopo 5 minuti spesi a bussare e urlare ininterrottamente, un vecchio in camicia e calzoni venne fuori dal casotto della dogana e alzò la barriera. «Da quanto tempo è passata una vettura da viaggio?» chiese Mr. Wardle. «Da quanto tempo?» «Sì». «Ecco, non saprei precisamente. Non da molto tempo e nemmeno da poco tempo. Una via di mezzo, direi». «Ma è passata di qui una carrozza?» «Oh sì, c'è stata una carrozza». «Quanto tempo fa, amico mio?» intervenne Mr. Pickwick. «Un'ora?» «Beh, direi di sì», rispose l'uomo. «O 2 ore?» domandò il postiglione sul cavallo di testa. «Ecco, potrebbe darsi benissimo», replicò il vecchio dubitosamente. «Via, ragazzi!» urlò irritato Mr. Wardle. «Non perdete più tempo con quel vecchio idiota!» «Idiota?» esclamò il vecchio con un sogghigno, stando in mezzo alla strada con la barriera semiabbassata e guardando la carrozza che rimpiccioliva rapidamente col crescere della distanza. «Già, questo non lo sapevo. Quest'altro nemmeno. Ma intanto avete perso 10 minuti e ve ne siete andati senza aver saputo un bel niente. Se tutti quelli che hanno avuto una sterlina lungo la strada se la guadagnano facendo metà di quel che ho fatto io, non prenderai l'altra carrozza prima del giorno di San Michele, vecchio tombolotto!» E con un'altra smorfia maligna abbassò la barriera, rientrò nel casotto e chiuse la porta dietro di sé. Intanto la carrozza proseguiva senza rallentare l'andatura verso la fine della tappa. La luna, come Wardle aveva predetto, tramontò rapidamente. Grandi cortine di nuvole scure e pesanti, che poco prima si erano avanzate a coprire il cielo, formavano ora una nera massa compatta sulla testa, e grosse gocce di pioggia, tambureggiando di tanto in tanto contro i finestrini della carrozza, sembravano voler avvertire i viaggiatori del rapido approssimarsi di una notte di tempesta. Anche il vento, che soffiava diritto contro di loro, batteva la stretta via con raffiche furiose e ululava malinconicamente fra gli alberi che fiancheggiavano la strada. Thank you. Mr. Pickwick si strinse nel cappotto, cercò di raggomitolarsi meglio nell'angolo della carrozza e cadde in un sonno profondo, che fu rotto soltanto dal fermarsi della vettura, dal suono del campanello di scuderia e dal grido «I cavalli, subito!». Ma qui si perdette altro tempo. I mozzi dormivano in modo così stranamente profondo che ci vollero 5 minuti ciascuno per svegliarli. Lo stalliere non si sa come aveva perso la chiave della scuderia e quando fu trovata, 2 insonnoliti aiutanti misero dei finimenti sbagliati a cavalli che non erano quelli e tutto il procedimento della bardatura dovette ricominciare da capo. Se Mr. Pickwick fosse stato solo, questi molteplici ostacoli avrebbero immediatamente messo fine all'inseguimento. Ma il vecchio Wardle non si lasciava scoraggiare così facilmente e si diede a distribuire botte a destra e a manca con tanta convinzione che una sberla a questa e uno spintone a quell'altro, qui allacciando una fibbia e là infilando un anello, la carrozza fu pronta in un tempo molto minore di quanto non fosse logico aspettarsi dopo tante difficoltà. Ripresero il viaggio, ma le loro prospettive non potevano dirsi davvero incoraggianti. La tappa era lunga 15 miglia, la notte buia, il vento forte e la pioggia veniva giù a torrenti. Era impossibile fare molta strada contro tutti questi ostacoli messi insieme. Era quasi l'una di notte e ci vollero altre 2 ore per arrivare alla fine della tappa. Qui giunti, però, si trovarono davanti agli occhi qualcosa che risollevò le loro speranze e rianimò i loro spiriti depressi. «Quando è arrivata questa carrozza?» esclamò il vecchio Wardle saltando giù dalla propria vettura e indicandone un'altra nel cortile tutta sporca di fango ancora umido. «Meno di un quarto d'ora fa, signore», rispose lo stalliere a cui era stata rivolta la domanda. «Una signora e un uomo?» chiese Wardle quasi senza fiato per l'ansia. «Sì, signore. Un uomo alto, in frac, gambe lunghe e magrolino?» «Sì, signore». «Signora anzianotta, viso affilato, piuttosto secca, eh?» «Sì, signore». «Per Dio, sono loro, Pickwick!» esclamò il vecchio signore. «Sarebbero arrivati prima», disse lo stalliere, ma gli si era spezzata una stanga. «Ci siamo!» disse Wardle. «Ci siamo, per Giove! Carrozza e 4 cavalli, subito! Possiamo ancora prenderli prima di arrivare alla prossima posta! Una sterlina a testa, ragazzi! Sveglia laggiù! Dateci dentro, bravi!» E incitandoli a questo modo, il vecchio signore correva su e giù per il cortile e smaniava avanti e indietro in uno stato di eccitazione che si comunicò anche a Mr. Pickwick, e sotto l'influenza del quale quest'ultimo si trovò avviluppato nel modo più incredibile in un groviglio di finimenti e in mezzo a una mischia di cavalli e di ruote di carrozza, fermamente convinto di accelerare così i preparativi per rimettersi in strada. «Salite, salite!» gridò il vecchio Wardle montando in carrozza, tirando su il predellino e sbattendo lo sportello dietro di sé. «Avanti, fate presto!» E prima che Mr. Pickwick potesse rendersi conto di quello che succedeva, fu fatto entrare a forza nell'alto sportello da uno strattone del vecchio signore e da uno spintone dello stalliere e furono di nuovo in viaggio. «Ah, questo si chiama muoversi!» disse esultando il vecchio signore. E così era, senza dubbio. come Mr. Pickwick poté constatare dal fatto che andava a sbattere tutti i momenti o contro il legno della carrozza o contro il corpo del suo compagno. «Tenetevi!» disse il corpulento Mr. Wardle mentre Mr. Pickwick stava arrivando a testa bassa sul suo ampio panciotto. «Non sono mai stato sballottato tanto in vita mia!» disse Mr. Pickwick. «Non fateci caso!» rispose il suo compagno. «Ne abbiamo ancora per poco! Reggetevi! Reggetevi forte!» Piero Baldini ha letto Il Circolo Pickwick di Charles Dickens. Riduzione di Carlo Talini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.